Ma da sì no. Gentimoleo, Lumatune, J.S. E lo sai com'è. E se guardo sotto le cinque sta scurisce già. Pilu piumino, metto le scarpe, gadda fuori se congela. Solo motore, bio, la macchina calma e non c'è l'aria cauta. Me pazzo nel viettino, giro non c'è denani. Ma quella c'è il cupe, c'è me, manca l'estate. Ehi, c'è cucu fazzo, cose gambe fanno viaggiare con la mente. Ce lo voglio la sai, ca sotto nudi pu de spiaggia. L'orecchia là dentro brucia come brucia lo cuore mio. Vedi, mi esciamo ma dai che ne abbiamo una cosa. Non pensare a dove vai, tanto lo sai che non c'è de possibilità. Una chiacchieraggia, noi una birra e passa la serata. Aspettando la dentro il cavene a fine settimana. No, caccia l'inverno, la sta l'estate che a me mi piace. Lu sulle perce me dà da sensazione. Cerchi con la crema, non riesci, dopo tu aspetti. Allora me sale la voglia dell'umare. Capo non me face stare, capo non ne face stare. Sale la voglia della salsedine, so sola pelle mia. All'estate se pensa finché tanto l'inverno non passa. Con un cappello di paglia sopra la testa mia. Secchietto e paletta, ehi amico aspetta. Facciamo un castello di sabbia, mi gira e rigira, la voglia non sficcia. Né sole né scarpa, me vodo, me svodo, me meno mo ambiente la sabbia. Non passa già l'ora, mi ritrovi gli spogli, come me non l'anversa. Quest'aria torbida, che a me dà sempre libertà. Voglia di provare le emozioni, che passa ne velo. Ma cancia la capure stane. Voglia di riprovare di sapori forti. Quando passa l'estate sempre te mancane. Voglia di provare le emozioni. Che passane veloci. Ma cancia la capure stane. Voglia di riprovare di sapori forti. Quando passa l'estate sempre te mancane. Sapore di sale, odore di mare, calore che sale. Granelli di sabbia, traffico in coda sul lungomare. Buttati giù in spiaggia per ore, con la schiena bruciata dal sole. Con gli amici giocare a pallone, crema abbronzante contro l'ustione. Sull'estate potenti, lo calore lo senti. In gianna danza se cucchiano i bagnoni che urrienti. Brividi sulla pelle, puro sotto le stelle. Brividi, emozioni, sensazioni, mole più belle. Via sopra la spiaggia, sotto le pinete. Tra le campagne, a mezzo le ville, puro a giocazzuete. Quando lo cauto si sente zicca, non molle belle giornate. Capace a tagli la lingua con bestenelle, meglio impunnate. Giro e rigiro e ci provo ancora. Accendo il camino e il calore mi consola ora. Sogno un gelato, il gusto al limone, un asciugamano, un ombrellone. Sogno una lotta col gavettone. San Lorenzo che emoziona, c'è un falò, ma non di certo sulla spiaggia. Il freddo inverno è vivo e tutto questo mi fa rabbia. Provare le emozioni, che passane veloci, ma cancia la capure stane. Voglia di riprovare di sapori forti, che quando passa l'estate sempre te mancane. Voglia di provare le emozioni, che passane veloci, ma cancia la capure stane. Voglia di riprovare di sapori forti, che quando passa l'estate sempre te mancane.